Semplicemente volevo riprendere alcuni elementi che ritengo centrali nella riflessione teorica e filosofica che abbiamo fatto. Perché questo libro fondamentalmente coglie un importante dato di realtà. Il dato di realtà che anche nel cosiddetto movimento no global di livello internazionale si è connaturato e che in tutti i media, dalla televisione ai giornali, anche alla produzione editoriale, vanno evidenziando, e che c'è un'attenzione ormai appassionata, a volte anche morbosa, sulle questioni legate alla vita materiale, particolarmente sulle questioni legate al cibo, all'alimentazione. E ciò è dovuto a tutta una serie di problemi di carattere storico-antropologico, certamente, ma ciò che ha distinto, diciamo, la nostra operazione teorico-filosofica è quello di pervenire, io credo, alla radice del problema. La radice del problema qual è? È che nella realtà contemporanea, con un processo che è durato secoli e che è in via di totale ultimazione, alcune coppie significative, che sono quelle tra città e campagna, tra contadinità e cittadinità, tra produzione e consumo, sono arrivati a un punto di assoluto non ritorno. E faccio proprio degli esempi piccoli, poi c'è il libro per raccontare pienamente, diciamo, il significato teorico di ciò che andiamo dicendo. E particolarmente dalla fine dell'Ottocento e per tutto il Novecento si è andato fagocitando tutto lo spazio cosiddetto di campagna. La ruralità è andata scomparendo per effetto duplice. Il primo effetto è stato quello naturalmente delle grandi migrazioni che continuano dalla campagna alla città, che comportano una urbanizzazione spinta, un'urbanizzazione che ormai è totale. Non c'è spazio del pianeta che non sia stato urbanizzato. E il rapporto inverso invece è stato un'espansione illimitata dello spazio urbano verso la campagna. Cioè, fondamentalmente, le popolazioni si spostano verso le città, mentre le città, con le loro reti, con i loro segni, con i loro simboli, con le loro costruzioni, con le loro seconde, terze, quarte e quinte case, con tutti, diciamo, gli ammennicoli della vita urbana, si spostano verso lo spazio totale, diffuso, che travalica ogni anfratto del pianeta. Questa urbanizzazione totalizzante va comportando che la campagna non esiste più. La campagna non esiste più anche in realtà di un dato di fatto sconcertante, e cioè che, così come è avvenuta nell'industria, anche nella campagna sono stati avviati processi di produzione che comportano l'assoluto disconoscimento del lavoro, l'assoluto disconoscimento della terra, della sensibilità della terra, della sensibilità degli uomini, e la progressiva sostituzione degli uomini e della terra, e dei materiali della terra, con i processi di sintesi, cioè fondamentalmente con le macchine, con la chimica, con l'ingegneria genetica e quant'altro. Cioè, fondamentalmente, a partire da tutti questi dati di realtà, c'è stato un fagocitare totale della vita extraurbana rispetto a quella urbana. Cosa comporta questo? Comporta che la morte della campagna abbia in sé un carattere mortifero totale, perché comporta la morte della terra intesa come la definiva prima Marc Tibaldi, cioè come spazio nel quale essere individuati come persone, essere individuati come sensibilità. Sensibilità, intendo, quando noi parliamo di sensibilità non parliamo di cose astratte, parliamo di vista, parliamo di udito, parliamo di palato, parliamo di tatto. Cioè, la sensibilità astratta alla quale facciamo riferimento spesso ha poco a che fare con i nostri sensi. Invece la desensibilizzazione che abbiamo, la deprivazione sensoriale, è parte fondamentale di questa insensibilità, cioè del non riconoscimento di questo tema, dell'importanza di questo tema, della fagocitarsi totale degli spazi e della sensibilità della campagna rispetto alla città. Quindi la morte di quella campagna, la morte di quella ruralità, comporta fondamentalmente la morte della vita e la sostituzione della vita attraverso processi di sintesi e di sostituzione che noi chiamiamo il macchinismo, che si contrappone alla vita.